9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 8 giugno. La trasmissione di oggi è dedicata alle code, ma anche alla comprensione, all'analisi delle conseguenze della risoluzione consensuale, anche se una consensualità un po' anomala, che è avvenuta tra Michele Santoro, lo storico conduttore e innovatore profondo, qualunque cosa se ne possa pensare, dei format televisivi, ha incentrato su di sé da oltre 20 anni una modalità completamente nuova di fare televisione. I giudizi possono essere molti, vari e diversi sul metodo, sul merito delle tante trasmissioni che sono collegate ineliminabilmente alla sua centralità nello schermo, ma una cosa è sicura: si è inventato un modo che ha consentito negli anni a chi la pensa come lui, ma anche a chi non la pensa come lui, di rimanere azzeccato, come direbbe qualcuno, di fronte al video a milioni e milioni di telespettatori. E da questo punto di vista, poiché la televisione è fatta di concorrenza ed è fatta di successo di forma, di successo di personaggi, inevitabilmente questa da lungo tempo annunciata e poi celebrata da Lorenza Lei, nuovo direttore generale della RAI, riseparazione nei confronti di Santoro fa molto discutere, secondo me più che giustamente. Io dico in pillole che mi trovo in quello che ha scritto, lo avremo ospite più avanti oggi in trasmissione, Aldo Grasso, sia ieri che oggi sul Corriere della Sera. Aldo Grasso ha scritto il primo giorno all'indomani della faccenda che comunque questo divorzio è un divorzio, no, più che altro è innanzitutto è un suicidio della RAI, e ce lo spiegherà poi Aldo Grasso. Oggi ha scritto Il silenzio dei garanti, si interroga sugli altri aspetti della questione. Forse alcuni si meraviglieranno che io difenda a questo punto Santoro. Errore, perché la questione è che chi è a qualità, merito, testa e per 20 anni fa televisione in quel modo, secondo me, se io fossi un manager televisivo, col cavolo che ci rinuncerei. Posso anche non essere d'accordo su quasi niente di quello che fa, ma comunque così mi comporterei. Le polemiche e le code oggi si allargano anche a che cosa avverrà di fronte all'approdo che fin dal primo momento molti hanno immaginato per Michele Santoro alla 7. Ieri la 7 ha assolutamente brandato un po' in borsa, il titolo di T-Media è salito del 17% addirittura. Oggi sui giornali, diciamo quelli più vicini al centrodestra, si ipotizza che ciò che nelle settimane precedenti aveva preso in qualche maniera piede, cioè di una trattativa tra la Telecom, la proprietà di T-Media, e il gruppo di De Benedetti per un passaggio di proprietà, abbia in realtà una soluzione alternativa, cioè quella che sia RCS interessata al futuro di una rete televisiva che comunque di fatto in questo anno, grazie al proprio di Enrico Montana, grazie al rafforzamento della sua linea editoriale, grazie ai nomi di punta eccetera, è diventata la novità rispetto al duopolio televisivo. E quindi c'è anche questa questione di fondo, con un rafforzamento ulteriore delle percentuali a doppia cifra del TG di Enrico Montana nel caso in cui approdasse anche Santoro. Si rompe definitivamente anche quel duopolio televisivo Rai Mediaset, che è stata la forma, l'espressione nel mezzo TV del bipolarismo purtroppo in conflitto di interesse che da 17 anni ci portiamo dietro. C'è anche questa questione di fondo, quindi pensate quanti punti si intrecciano. E direi che abbiamo un primo ospite di eccezione, perché abbiamo proprio con noi il direttore del TG della 7, Enrico Montana, da cui, oltre a un saluto e un ringraziamento per questi minuti che ci regala, io non posso che chiedere, oltre alla soddisfazione se arriva Santoro, in realtà cosa pensi? È un suicidio, come dice Aldo Grasso, per la RAI? Beh, diciamo che se è un suicidio, è un suicidio che è stato consumato con estrema lentezza. Santoro stava già per mollare poco più di un anno fa, aveva già trovato una sorta di soluzione consensuale, poi saltò per tutta una serie di motivi, perché secondo quello che ha la sua impressione Masi giocava sporco, secondo quello che ha la sua impressione il suo pubblico non avrebbe capito del tutto. Insomma, non dobbiamo dimenticare che c'era stata una prima puntata di questo suicidio, di questo lento suicidio. Poi però io ti devo dire agli ascoltatori che in questa logica della tragedia per il servizio pubblico non mi ci trovo tanto, voglio dire. Siamo in una televisione che dovrebbe avere un mercato. In un mercato, se uno passa da A a B, non dovrebbe essere una tragedia. Questa è la questione di fondo. Se quando Santoro nel 2000 tornò da Mediaset alla RAI, nessuno disse che era una tragedia. Allora la tragedia è soltanto quando si va dal pub, pubblico verso il privato, oppure quando si scioglie un contratto che peraltro era un contratto che era un mostro, perché in realtà Santoro andava in onda soltanto per la decisione di un giudice e contro cui la RAI aveva interposto appello. Sono molti gli elementi che si intrecciano. Sicuramente ne esce male la RAI perché ha un talento e se lo lascia sfuggire, però voglio dire, sembra che vada a giocare in una squadra straniera, sembra quando un campione di una squadra italiana va a giocare all'estero e dice ce lo siamo lasciati sfuggire. Ma... No, per carità, su questo hai ragione e probabilmente è stata questa impressione, non fai altro che darmi la possibilità di correggere. La mia non è la difesa, dice la morte del servizio pubblico perché va alla concorrenza. Io sono per la concorrenza, dico solo che chi commenta, che probabilmente in Rai in qualche modo, malgrado le polemiche striscianti da tanto tempo, ma insomma la questione di ciò che rappresenta Santoro e il suo pubblico per la Rai, io me la sarei posta in Rai. Detto questo, aveva la concorrenza, hai ragione, scusami se ti ho interrotto. Ma ecco, perché noi dobbiamo veramente, è quello che ho tentato di fare è proprio questo, noi dobbiamo spostare l'idea che c'è la RAI e poi ci sono degli altri che mirano a far quattrini con la televisione e la RAI invece che ha la sua missione. E che io personalmente faccio un telegiornale e nella vita ho sempre fatto telegiornali e ho cominciato a lavorare in un telegiornale 31 anni fa ed era il TG1, non è che mi sono posto il problema, adesso qui lo sto facendo nel servizio pubblico, qui lo sto facendo da un competitore privato. Se tu fai questo lavoro in televisione di informazione, lo fai uguale. Se davvero Santoro arrivasse alla 7 e facesse il suo programma, non penso che sarebbe diverso qualitativamente e contenutisticamente da Anno Zero e da tutte le altre cose che ha fatto in Rai e aggiungo anche a Mediaset. Se noi sfrondiamo tutto questo, poi certo è una brutta storia per la Rai perché dimostra l'azienda di stare tutto sul mercato, ma Oscar e cari ascoltatori di Radio 24 non è che avevamo bisogno di questa prova, no? Cioè siamo sempre a parlare di un'azienda che ha quella piccola anomalia, e piccolo ovviamente è ironico, che il suo board di controllo è direttamente nominato dai partiti, dalla Commissione parlamentare di vigilanza, e se tu hai i partiti politici come editore, che cosa pensi che puoi stare sul mercato normalmente? Mi sembra ineccepibile, io da decenni penso che quel sistema vada smontato. Naturalmente c'è chi pensa che il servizio pubblico non può che avvenire con una proiezione della politica così diretta. Posso farti una domanda? L'impressione che hai delle mosse in questi primi due mesi di Lorenzo Arelli, direttore generale della RAI? Perché c'è chi dice in realtà è un direttore generale che si muove secondo procedure più vicine a una correttezza aziendale, coinvolge molto di più del suo predecessore, è molto meno espressione di una linea, per così dire, di collegamento diretto col capo del governo, e in questa maniera riesce a portare dei colpi a segno che prima erano impensabili. Non lo so, per esempio fa chiudere Sgarbi alla prima puntata, ma in maniera tale che sembra un autoribaltamento ridicolo di Sgarbi stesso, e quindi evitando code polemiche, anche perché non è proprio così facile riuscire a spegnere Sgarbi alla prima puntata. Automaticamente risolve senza avvisare troppo le parti politiche del CDA una questione che per la storia della RAI di questi anni, come ricordavo, è delicata come quella di Michele Santoro, e oggi si difende sui giornali dicendo in realtà ha evitato un danno alla RAI perché c'era di nuovo l'incombere della conferma del magistrato a Santoro, non gli ho dato naturalmente il no, il divieto temporaneo alla concorrenza perché l'avrei dovuto pagare anche di più e sarebbe stata anche in quel caso un giudice avrebbe detto che era contro l'articolo 21. Insomma, questo direttore generale della RAI è semplicemente un aziendalista più ferreo ancora nell'obbedienza secondo te, oppure in realtà, come sostengono alcune, Lucia Annunziata è una che dice guarda, sta Lorenza, lei a me piace, potrò non essere d'accordo nel merito, ma sicuramente ha un polso aziendale che dimostra che sa che cos'è una televisione. Tu che impressione hai? Che tutte queste impressioni sono tutte valide, nel senso che primo è un aziendalista, secondo è una persona che non conosciamo da nessun proscenio, no? E quindi dall'idea comunque di essere una dirigente che è cresciuta dentro quell'azienda senza andare nei salotti o partecipare a trasmissioni o cose di questo genere. Non è un corpo estraneo rispetto alla RAI, come in parte era il suo predecessore, ovviamente, essendo sbarcato lì da altri lidi, e quindi si vede che si muove nella RAI come un pesce nell'acqua, e questo è sicuramente un dato positivo. E poi mi pare che abbia un tratto di gentilezza che non guasta, che sia determinata e non guasta. Detto questo, qualsiasi dirigente, da Carli Fiorina e in giù, anche se è donna, si, poi alla fine si valuta dai risultati che ottiene. Non c'è dubbio, per chiudere ancora sull'aspetto che ha fatto, cioè ha chiuso senza danni la questione Santoro e senza tentare di imporre il patto di non concorrenza, ma posso permettermi di dire che il patto di non concorrenza per un giornalista televisivo è un suicidio. Cosa dovrebbe fare un Santoro, ma chiunque altro? Per non far male alla RAI dovrebbe stare 2 anni senza lavorare. No, c'è stato un po' come il patto di concorrenza non esplicito ma implicito, quindi ne hai pagato di che ti è stato inflitto dal tuo ex editore, per cui sei stato un bel pezzo di tempo però, senza trovarne un altro, ecco. Però personalmente mi ha rafforzato, nel senso che innanzitutto tu hai tempo per guardarti intorno e ragionare, ma quella è una censura di mercato, almeno non la provi ovviamente perché ne sei vittima, però sai che meccanismo è. Invece che due si mettano d'accordo perché uno non lavori in cambio magari di soldi in più, secondo me è assolutamente insensato. Ma soprattutto quello che è stato insensato, visto che questa è una vicenda che fa male alla destra, nel senso che è stato Berlusconi occhiutamente arrivare a questo showdown, però diciamo anche che mi ha sorpreso molto vedere i due consiglieri di amministrazione espressi dal Partito Democratico dire ma non è stato neanche imposto il patto di non concorrenza. Ma come, tu protesti perché una voce libera viene spenta e poi vorresti che restasse spenta per 2 anni per non far male alla RAI? Giusta osservazione, giusta osservazione. Chi lavora dentro la RAI, e di pensare che la RAI sia il mondo, ma la RAI è un'azienda, voglio dire, se la Fiat è in crisi uno compra la Volkswagen, un utente che ha bisogno di un'automobile, non è che dice no, vado a piedi, ecco. La RAI spesso si comporta, e chi sta dentro la RAI vive i problemi della libertà, dell'informazione, di tutto, come se non ci fossero alternative, ma non è più così, il monopolio è stato spento da 35 anni. Io non ti chiedo un giudizio sul fatto che in Rai viene annunciato al posto di Santoro Giacobbo, quello ci penso io a darlo, mi sembra un'alternativa risibile, perché non stiamo parlando di informazione. Ma... di Bernabei sarebbe stato Giacobbe. Esatto, è così, forse c'è una vocale sbagliata. Ma detto questo invece, qualche considerazione, sia pure con comprensibile cautela da parte di questo che sei il direttore della rete, ma gli sviluppi che vedi per la 7 a questo punto, al di là di questa querela che è partita immediatamente tra RCS e Benedetti, ma in realtà come rete in quanto tale, al di là di chi sia il proprietario, visto i risultati di quest'anno, come la vedi, se arriva chi deve arrivare? Chi intendi Santoro, chi deve arrivare? Sì. No, si può parlare anche degli editori di cui si parla, no? Sì. Io, se posso dirti una cosa, è che la vera forza in questo momento della 7 è che non ha colore nella sua proprietà. È ovvio che se uno guarda un programma di Gad Lerner, sa che Gad Lerner è orgogliosamente e anche intelligentemente fazioso, no? Sa certo. Che è un che cosa è. Se uno vede la Gruber, vede il tentativo molto valido di essere professionalissima, ma sa la sua storia, vede tante cose e può sembrare una TV in parte di opposizione, chiamiamola così, o comunque sia non certo allineata rispetto al baricentro politico del paese, o perlomeno quello che fu espresso 3 anni fa. Però dici la proprietà consente di evitare l'ombra, no? Francamente, darebbe lo spazio, adesso dico una cosa per dire, Oscar Giannino, che non è certo non è un comunista, va con una bella proposta alla 7, l'idea che dà la 7 è di essere la rete in cui Oscar Giannino può fare il suo programma senza che nessuno dall'inizio alla fine della sua programmazione gli rompa le scatole su quello che può fare e quello che non può fare. Certo. Cioè un'idea di libertà che non deriva dai protagonisti, ma deriva dal fatto che è una rete in cui visibilmente chi ci lavora dentro può fare quel che gli pare. Ed è, se posso dare una testimonianza, è quello che vivo io, nel senso che effettivamente a me mi è stato chiesto di fare il miracolo, ma ovviamente l'unico patto che ho detto, allora però lasciatemi fare assolutamente tutto quello che voglio, e le due cose hanno funzionato, nel senso che sia ho potuto fare quello che volevo, sia dal punto di vista degli ascolti è venuto fuori il miracolo. Ma questo non sarebbe stato possibile se la proprietà mi avesse oscurato, non nel senso di non mandarmi in onda, avesse tanto riverberato la propria visibilità da in qualche modo oscurare un po' il prodotto, e se ovviamente non ci fosse stata una percepibile voglia di crescere con una televisione diversa. Diciamo che questo stesso segno resterebbe, per stare dietro alle cose lanciate oggi dal giornale, per esempio, da Nicola Porro sul giornale, resterebbe questo stesso segno se al posto, ipoteticamente, dell'attuale Telecom ci fosse RCS, e cambierebbe se ci fosse De Benedetti oppure no? Certo che cambierebbe. Cambierebbe in ciascuno dei due casi, e ancora di più ovviamente se ci fosse De Benedetti. È ovvio che la forza della 7 di essere una cosa diversa rispetto ai prodotti giornalistici che troviamo in edicola. Se si fosse, a parte le necessità di sinergie, di fatiganti, eccetera, eccetera, ma è ovvio che ripeto, puoi essere molto garibaldino, puoi essere avanguardista, puoi essere d'opposizione perfino, perché lavori, perché fai un programma o un telegiornale in una rete che comunque non ha un segno vistoso nella sua proprietà, ma se la rete ha un segno vistoso nella sua proprietà, come sarebbe De Benedetti, ovviamente tu poi vieni inquadrato in quelle che sono le mire vere o presunte dell'editore. Quindi non sarebbe la stessa cosa. Detto questo, uno lavora dove lavora, e che secondo me è stato abbastanza senza lavorare, poi probabilmente una bella offerta o una bella continuità ci sarebbe anche se cambiasse l'editore. Io posso dire che non per paraculismo, ma l'ideale sarebbe che continuasse a essere la 7 e l'editore incaricato, l'editore incaricato della 7. Se poi trova un partner industriale, come si dice, come lo stesso Stella, che è l'amministratore delegato di Telecom Italia Media, ha in qualche modo evocato, si trovasse un partner industriale che prende una parte della proprietà e ci investe a sua volta, mi piacerebbe che non avesse un segno politico o editoriale vistoso, proprio per continuare in questo perfetto equilibrio. Va bene, allora a questo punto intanto i nostri ringraziamenti, i nostri auguri a Enrico Mentana per procedere col suo lavoro, che in effetti secondo me quest'anno ha potentemente contribuito a far risaltare i vizi, i difetti anche dei concorrenti, perché l'informazione televisiva, quando si tratta di TG, deve innanzitutto fare questo, secondo me bisogna ringraziarlo. Sapete che quando non lavorava io più volte ho detto cosa pensavo di un paese che lascia gente come Mentana e senza lavorare, lo direi allo stesso modo di gente come Santoro, dico gente apposta, non per dire al di là dei rapporti personali. La televisione è questo, è la capacità di saper far vedere nel tempo che associati al proprio volto, alla propria professionalità, ci sono dei contenuti particolari, delle modalità particolari. Non conta nulla che io non sia quasi mai d'accordo con Michele Santoro, quello che conta è che Michele Santoro è uno che resterà e resta inequivocabilmente nella storia della televisione italiana, che ha molti difetti e miei giudizi, ma che non ha molte capacità del tipo paragonabile a quella di Santoro. E se la cultura moderata, quella del centrodestra, mi ripugna un po' dirlo, della televisione come se si trattasse di politica, non è stato in grado di produrre in tanti anni, questa è una delle tante osservazioni che fa il centrodestra dicendo è tutta una banda di quelli di sinistra in televisione, beh forse probabilmente chi ha diretto le cose nelle aziende pubbliche o private televisive del centrodestra, se non ha dato agio e libertà a chi di agio e libertà come Michele Santoro fanno addirittura abuso talvolta, ma che sono inequivocabilmente legate alla loro maniera teatrale di fare televisione in formazione, beh vuol dire che evidentemente forse nel campo moderato di centrodestra non si ha la concezione che chi fa informazione e approfondimento debba avere altrettanta libertà. Questa è la mia opinione, anzi questa posso dirvi è stata la mia esperienza nella mia breve parabola a Rai 1, con qualcuno che poi mi chiamò e disse no, tu non puoi andare in diretta dicendo davvero quello che vuoi senza programmare ordini e temi, e anche all'epoca il tema era tagliare le tasse, io andavo dicendo voi avete promesso, voi le dovete tagliare, quindi insomma più o meno ho avuto una piccola esperienza di questo tipo, in base alla quale dico se poi la sinistra rende più liberi al punto tale da diventarli, farli fare i filibustieri, i corsari, quello che volete, chi è bravo a fare informazione e approfondimento da quel dichiarato punto di vista, ebbene merito alla sinistra, forse il centrodestra ha molto da imparare da questo punto di vista, perché talvolta preferisce i camerieri, non solo in politica, ma anche nell'informazione. E i camerieri c'è poco da fare, che io rispetto, perché fanno un servizio meraviglioso ai tavoli, con grande dignità, ma quando si tratta di fare informazione, lo stile cameriere non premia. mai. Così tornati in studio, il caso di Michele Santoro, io lo so che molti dicono ma i problemi sono altri. Ieri stesso, di fronte al fatto che l'apertura dei giornali era dedicata a quello, nella trasmissione di 9 in punto di ieri ho detto beh, veramente non sono quelli i problemi del paese. Però una volta che è ben chiaro che le conseguenze possono arrivare anche all'equilibrio delle reti televisive, come vedete, e all'editoria italiana, De Benedetti, RCS, Telecom, e beh, come vedete la questione non è solo quella di un conduttore, che anche in quel caso secondo me non giustificava l'apertura dei giornali. Ma intanto sentiamo qualche dichiarazione di quelle rilasciate da Michele Santoro. Lo sapete che ieri era annunciata una conferenza stampa, poi non si è tenuta perché la RAI non ha prestato i locali, ma intanto che cosa ha detto Michele Santoro? Sono 15 volte che Anno Zero è stato il primo programma tra tutti i programmi trasmessi in quella sera, 21% di share su una rete che fa quasi il 9%, pubblicità in crescita del 20% con la RAI che invece perde il 20% di pubblicità. Eccoci, questo punto è uno dei punti più delicati tra l'interpretazione delle polemiche in tutti questi anni intorno a Michele Santoro, ma non solo a Michele Santoro, intorno anche ad altri nomi della RAI, di quelle che sono diciamo in cima alle polemiche tra centrodestra e centrosinistra, Dandini, Fabio Fazio, eccetera, eccetera. Di cosa sto parlando? Del fatto che Santoro fosse, non solo per gli ascolti, ma naturalmente in proporzione agli ascolti, quindi allo share, anche una cospicua risorsa finanziaria per la pubblicità che era in grado di attirare alla RAI. Ma questo punto è sempre stato un punto che ha animato molte polemiche, per molti dicono sì, però ci giobbano, per così dire, ci giocano un po' su questa storia del loro audience e della loro pubblicità, perché in realtà poi costruiscono delle strutture proprie, non sono dipendenti, hanno contratti mega multimilionari. C'è chi dice sempre della Dandini, per esempio, che si appoggia alla Fandango, ex guidata da un ex dirigente della RAI, Andrea Salerno, con un consigliere della RAI, Van Straten, nominato da Veltroni un po' per sorvegliare su questo contratto, e la Dandini addirittura pagata più di Santoro. Insomma, intorno ai denari che attraverso la pubblicità questi conduttori di punta come Santoro portano in RAI, e intorno ai denari che poi con i contratti, intorno alle strutture esterne che si realizzano e si alimentano i loro contratti, c'è sempre stata una polemica. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo con noi Marco Mele, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che da anni e anni fa dell'analisi anche dei proventi finanziari e della concorrenza economica, finanziaria e patrimoniale dei players televisivi e dell'informazione italiana, uno dei criteri di fondo. Io sono molto d'accordo, ho sempre molto imparato da quello che scrive Marco Mele. Chiediamo a Marco Mele innanzitutto questa vicenda dei denari che Michele Santoro porta all'azienda che lo manda in onda rispetto a quelli che costa, e oltre al caso di Santoro quelli anche di un paio di altri nomi di punta di questo tipo. È un caso che giustifica quello che loro dicono, e quindi coloro che pensano che poi sia un enorme auto da fe, una specie di autopunizione mandarli via, perché i denari comunque che aggiungono sono molto maggiori come importanza delle polemiche che alimentano, oppure in realtà ha ragione chi dice beh, momento, è vero, sì, aggiungono punti di share, però costano anche l'ira di Dio, e poi si autonomizzano attraverso produzioni esterne e quindi poi non sono più riconducibili a una linea editoriale, che è un po' anche il sottinteso della posizione di Lorenza Lei, che dice io devo ridare una sinergia e una impronta editoriale a questa azienda, non ridurla a una somma di autoproduzioni esterne di grandi nomi. Come la pensa Marco Mele? Innanzitutto grazie. Dunque, intanto buongiorno. Intanto i casi sono tutti molto diversi. Intanto Santoro, che è il caso, non è una produzione esterna a RAI come quella di Serena Dandini, o come Che tempo che fa di Fazio, che è prodotto da Endemol e quindi in qualche modo può sfuggire al controllo editoriale della RAI. La cosa che accomuna queste tre trasmissioni è che gli introiti che portano a livello di pubblicità che raccoglie la Cipra, non loro, e quindi va direttamente alla RAI, sono superiori, parecchio superiori nel caso di Santoro, al costo delle trasmissioni, compreso anche il costo sotto la linea, cioè l'elettricità, gli elettricisti, le truppe, eccetera. Questo non accade in tutti i programmi. Questo apre un problema che secondo me forse sfugge finora all'analisi. Ho sentito tutto Mentana, tutto giusto quello che dice, ma attenzione, la RAI è finanziata dal canone che pagano tutti i cittadini, rispetto agli altri soggetti B, C in cui può andare un conduttore. Ecco, il programma di Santoro non è pagato al canone, cioè si paga tutto con la pubblicità al suo interno. È la legge dell'audience e l'audience non è che può essere vista. Santoro fa 5,4 in media in questa stagione, 5,4 milioni di spettatori. Col, lo dice lui, appunto, io il dato esatto è 26% di share, andiamo a 21. E Rai 2 in prima serata, il 9% dice Santoro è l'intera giornata, ma comunque in prima serata fa poco più del 10% con Santoro dentro, quindi senza Santoro in realtà sta sotto il 10%, che vuol dire che lui fa, insomma, più del doppio della media di rete. E questo, gli inserzionisti poi in un mercato comprano le teste, cioè comprano gli ascolti, e questi ascolti li vende la SIFA, li vende la RAI. Comunque un'altra questione è il controllo editoriale della RAI sui programmi, ma qui si entra in un passaggio molto delicato, che poi anche voi diceva Mentana, è chiaro che se c'è un editore anziché un altro posso anche vedere in qualche modo ridotta la mia autonomia, io comunque faccio che vuol dire controllo editoriale della RAI sui prodotti e sui programmi? Lascio la domanda senza risposta. Ogni caso siamo in un mercato dove attenzione, qui non è solo Santoro, lui è il conduttore, ma tutta la squadra di Santoro che comunque lavora in RAI. Santoro ha lasciato la RAI con un piano di incentivo come dirigente RAI, con una certa cifra che equivale a quella di un dirigente RAI che lascia l'azienda. Cioè non è, anche qui non tanto solo una superstar, è chiaro che guadagna più di un normale cittadino, è chiaro che guadagna anche più, ma è proporzionato anche a quello che un programma come Anno Zero. Un suicidio sicuramente nella prossima stagione, Coron Giacobbo, la Rai 2 e la Rai in prima serata sono più deboli. No, ma questo non c'è. Non c'è alcun dubbio. No, ma io sono senza parole, con tutto rispetto per il tipo di televisione che fa Giacobbo, una televisione, diciamo così, che fa dell'impressionismo pseudoscientifico. Il mio giudizio è che la dice lunga su come poi in questo paese non riusciamo più a parlare di nessuna grandezza fisica con i nostri studenti senza avere grande confusione, a furia di illudere che la storia sia una specie di enigma e mistero di dischi volanti. Però questa è la mia opinione su un'azienda che possa pensare di sostituire una discutibilissima trasmissione come quella di Santoro, ma che fa i numeri che ci ha appena detto Marco Mele, fa i numeri di ascolto, ma fa i numeri anche di raccolta, che superano ovviamente di gran lunga quello che è la parte da servizio pubblico e da canone, con Voyager di Giacobbo. Ma voglio dire, stiamo scherzando. E perdonate, visto che molti ascoltatori, come anche oggi, dicono: ma come, non eri tu l'unico moderato tra tante voci di sinistra, perché difendi? Perché se per voi moderati significa decisioni di questo tipo, e le decisioni di questo tipo sono sciocche, sbagliate, e io da moderato mi irritano ancora di più se pensate di ascriverle a un campo che io difenda il campo, quando si tratta di decidere stupidaggini, capite? Lo dico con la stessa decisione con la quale ieri sera, ospite del mio amico Floris, ho dovuto contestare molto pesantemente un cartello sul primo quesito dell'acqua, perché quel cartello proposto alla trasmissione di Floris come se fosse l'abrogazione di una norma che obbliga a accedere a privati la gestione del servizio idrico, quando la norma lo dice, ha fatto questo, mi sono battuto con forza, e mi dispiace vedere trasmissioni in cui avvengano mistificazioni di questo tipo, ma lo dico però senza negare che gente come Floris, gente come Santoro, che ha 20 anni di protagonismo alle spalle, non mi interessa che voi lo riduciate a sinistra o a destra, perché stiamo parlando di un'altra cosa, di capacità di saper fare informazione di parte con un taglio particolare, ma di successo, capace di interessare milioni di persone, e questo va riconosciuto. Se voi pensate che i moderati devono cacciare, avete un'idea autosuicidaria di che cosa significa essere cultura moderata in televisione. Chiedete al vecchio Bernabei, appunto, che cos'era una cultura moderata che non cacciava ma inglobava, con tutto che io ero antidemocristiano. Allora, abbiamo con noi Aldo Grasso, che è esattamente colui le cui parole ho richiamato all'inizio della trasmissione, sia il commento di ieri che avete sentito ha portato Enrico Mentana a dire: sì, però io non sono troppo d'accordo a parlare di un'azienda che si suicida se fa così, questa è la concorrenza. concorrenza, sia il commento di oggi che trovate poi in prima pagina sul Corriere, che continua a interrogarsi anche sul silenzio dei garanti, sul presidente della RAI, ma sul presidente anche della Commissione di Vigilanza. Allora, Aldo Grasso, in questi due giorni ha dato giudizi precisi ed espliciti. Posso chiederle, al di là del giudizio, cioè che mai un manager mollerebbe uno così, lo condivido, ma cosa pensa che adesso avverrà in futuro, visti questi, che cosa può spostare un Santoro e magari altri che escano dalla RAI? Siamo di fronte a una crisi della RAI come azienda troppo vicina alla politica, oppure siamo semplicemente di fronte al fatto che questa RAI così com'è continuerà a restare vicina alla politica, magari a un'altra politica, semplicemente perché perderà più rapidamente punti? Lei che si aspetta? Ma quello che mi aspetto, intanto buongiorno a tutti, quello che mi aspetto è sempre difficile dirlo, mi aspetterei intanto di uscire da alcuni equivoci di fondo. Allora, la RAI non ha una linea editoriale da almeno 30 anni, la RAI ha una linea politica, questa è la sua debolezza di fondo, nel senso che da 30 anni almeno i direttori, la linea di comando viene scelta in base non a caratteristiche professionali, ma in base a fedeltà politica. Questa è la prima grande anomalia della situazione italiana. Questo cosa succede? Succede che, come dire, non, tutti i programmi, non si fa il bene dell'azienda, ma si fa il bene di una parte politica che controlla comunque l'azienda RAI, considerata da sempre un bottino di guerra dei vincitori delle elezioni. Si lascia all'opposizione magari la terza rete o viceversa quando vincono gli altri, insomma, comunque questo è l'equivoco, il grande equivoco di fondo. Quando Lorenza lei dice ma io voglio ribadire l'autonomia della RAI, l'autonomia editoriale, la prima cosa che dovrebbe fare è mettere a capo delle tre reti RAI delle persone competenti. Non voglio fare dei casi personali, ma insomma le reti sono dirette da giornalisti. Ora, occuparsi di programmi, di sceneggiati, di talk, eccetera, è una cosa completamente diversa dal giornalismo. Allora, tutto questo perché? Perché si sceglie una persona che invece ispira fiducia e cose di questo genere. Questo è il primo grande mistero. Il secondo, la seconda grande anomalia è che noi abbiamo un servizio pubblico ipertrofico, cioè che è costituito da tre reti generaliste e da un'altra decina di rete che vanno sul digitale terrestre. Ora, non c'è nessun paese al mondo che abbia un servizio pubblico così esteso, così paralizzante per tutto il resto. Poi lo sappiamo, l'altra metà della televisione è di Mediaset, insomma, e quindi, come dire, è un sistema bloccato, difficilissimo da descrivere a colleghi esteri che ci chiedono notizie sulla situazione italiana. Il caso Santoro è un caso che io continuo a pensare che sia un caso di suicidio della RAI, insomma, cioè nel senso che, come è stato giustamente detto, il personaggio è a tratti insopportabile, la sua trasmissione è faziosa, tutto quello che volete, però insomma è il programma che non solo porta pubblico, ma c'è una cosa molto più importante che non viene considerata, che si chiama illuminazione della rete. Cioè, Rai 2 esiste perché c'era Santoro. Se va via Santoro, la rete sparisce, cioè proprio, come dire, non se ne parla più sui giornali, non ha nessun riscontro mediatico, eccetera. Questo è un valore aggiunto molto importante. Santoro va da un'altra parte, io mi auguro appunto che, come dire, che possa andare alla 7, ma non per chissà quale calcolo, ma semplicemente perché in questa maniera verrebbe un po' scardinato questo sistema sclerotico che da tanti anni accompagna la televisione italiana. Rai 7, come dice oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano Carlo Freccero, questa, Berlusconi ha fatto male i conti, questa in realtà è l'inizio vera della fine di Rai 7, la pensa un po' così anche lei? Sì, penso, ma guardi, io me lo auguro, ma non perché, come dire, faccio il tifo per uno o per l'altro, eccetera, faccio soltanto il tifo per la buona televisione. E se guardi, la 7 è successa una cosa molto, molto curiosa, veleggiava intorno al 2-3% di share, è bastato che arrivasse Mentana con un suo telegiornale, che lo si giudichi come, come ognuno ritiene, ma insomma è un telegiornale un po' più spigliato degli altri, è un telegiornale che racconta, che ha una struttura narrativa che altri giornali hanno totalmente perso, e beh, insomma, si è passati dal 7, 9, 10% di share, cioè è una cosa incredibile. Condivido questo appello finale di Aldo Grasso, che ringrazio per tutto quello che scrive da anni e anni per la buona televisione, e condivido anche il giudizio sul fatto che o la Rai è capace, io non lo credo capace con questa formula organizzativa, di distaccarsi dalla politica e di mettere gente che sa fare televisione e non giornalisti, ex direttori di giornali di partito o comunque affiliati a corrente di partito, perché questa è la ragione per cui sono i giornalisti direttori di rete. Allora, oppure credo che sia meglio farne polpette, per dire polpette naturalmente dico privatizzare, lo dico apposta perché molti dicono che invece no, è il servizio pubblico che rimane pubblico. Il servizio pubblico, quello non è il servizio pubblico, è il servizio dei partiti, perdonate. E capisco che Michele Santoro abbia fatto molto successo nei 20 anni, perché ogni volta ha fatto contro, ha fatto il Masaniello, ha fatto l'insurrezionalista, chiamatelo come volete, ogni volta contro, ha persino usato Berlusconi quando era all'opposizione, ogni volta contro, vorrà dire qualcosa, no? Che si fa successo così, e vuol dire quello, in effetti, vuol dire che è la formula stessa del servizio pubblico che è autosuicidaria, inteso come servizio ai partiti, con i camerieri, come ho detto prima. Allora, grazie anche ad Aldo Grasso, e adesso andremo, dopo l'introduzione sull'informazione stradale, a un altro aspetto, quello del format televisivo, quello della caratteristica di questo personaggio Santoro, piaccia o meno, una caratteristica che ha cambiato per molti versi la storia della televisione italiana, e ne parleremo con Massimo Bernardini, giornalista, mio idolo, conduttore di TV Talk su Rai 3, a tra poco, intanto strada. Per interrogarci ancora sul seguito del caso Santoro, e parliamo con, abbiamo con noi Massimo Bernardini, appunto, ripeto, mio idolo, conduttore di TV Talk su Rai 3, per chiedergli, oltre che ringraziarlo perché è in ascolto da parecchio e quindi ho rubato troppo tempo, ma io voglio sapere la sua opinione intorno al fatto, assisteremo a una nuova trasformazione della capacità funambolica, molto teatrale, autocentrata, egotica, si può dire quello che si vuole, ma sicuramente non avara di sorprese di Santoro. Si aspetta, rispetto al suo percorso ventennale, rispetto a qualche passo falso, quando fece Moby Dick per esempio su Mediaset, non ebbe tutto questo clamoroso successo, che cosa ci riserva dal punto di vista di un osservatore dell'evoluzione dei format, della capacità di bucare il video come lei, Santoro, per il futuro? Oppure è una formula arrivata in qualche misura agli sgoccioli perché connaturata a 17 anni di lotta sì o no a Berlusconi, e quindi il giorno in cui dovesse finire cambierebbe inevitabilmente? Lei che pensa? Allora, buongiorno Giannino, buongiorno agli ascoltatori, e grazie per i complimenti, ma comincio a essere imbarazzato. Ma a parte queste stupidaggini, il problema secondo me è un punto di partenza che anche nei commenti di questi giorni si perde un po' per strada. Cioè, Santoro è stufo di fare il tribuno, e lo ha detto, lo ha conclamato, lo ha fatto sottilmente durante le ultime puntate, insomma, secondo me lo farà anche giovedì, lo dirà in qualche modo. È che qui c'è come un sottile gioco in cui politica, conflitto di interesse, crisi della Rai, talento professionale e mercato si scambiano continuamente le parti, e uno di questi elementi diventa dominante anche nei commenti dell'opinione pubblica. Cioè, lei dice che quando Santoro in questa stagione diceva io vorrei sperimentare cose nuove, come quando poi ha fatto al palazzetto dello sport quella giornata televisiva fuori, dice la verità, è vero? Ma è stravero. Allora, chi lavora con Santoro sa benissimo, per esempio, la passione assoluta che lui ha per il montaggio, per la regia visiva della sua trasmissione. Tutto questo è un aspetto che non esiste nei commentatori. Anche un intelligentissimo come Grasso, secondo me, sottovaluta questo aspetto. Cioè, per esempio, quando dice Santoro è antipatico, no? È come una premessa che uno dice, ma scusate, ma chi ha mai detto che le star devono essere simpatiche e sopportabili? Noi chiediamo a Bob Dylan o a Vasco o a Riccardo Muti che siano simpatici e sopportabili? No, chiediamo che siano creativi, inventivi, che chiamino pubblico, giusto? Questo è quello che chiediamo loro. Quindi secondo me c'è un modo anche di affrontare il tema che perde di vista che cos'è Santoro come creatore di televisione. Io credo che sia successa una cosa strana, cioè in realtà quello che stava facendo Masi, poi sbagliando, è quello che poi la Lei ha fatto, cioè ha eliminato quel grosso contenzioso per cui la Rai non aveva più una libertà editoriale rispetto ai conduttori, e questo era molto complicato, no? E questo è stato risolto. Però qual è il problema? È che secondo me ha ragione Grasso nel dire che oggi la Rai fa molta fatica a creare una linea editoriale, che è stata, secondo me c'è una ragione precisa, cioè è stata distrutta una generazione di quadri. Infatti ci siamo noi giornalisti in qualche modo, no? Che, perché siamo gli unici rimasti che hanno una minima formazione mediatica, ma in realtà i quadri veri televisivi sono un'altra cosa in tutto il mondo. In questo ha ragione Grasso, ha profondamente ragione. Allora, però il punto qual è? Che secondo me Santoro vuole fare altro. Per esempio Santoro, cosa perde? Qual è il problema della Rai oggi? Che perde un fantastico dirigente, non che perde un tribuno. Lui voleva essere un dirigente, la RAI non è riuscita, per tutto quello che dicevo prima, però, in cui anche Santoro è colpevole, cioè in questo teatrino in cui in prima fila diventa la politica, poi in prima fila diventa il problema della RAI, poi in prima fila diventa l'incapacità della RAI di gestire le star, è un continuo giro per cui davanti c'è sempre una nuova cosa, ed è questa la crisi della televisione italiana. Ma in realtà il vero problema è quello lì, cioè io credo che Santoro se andrà alla 7, ma però quello spiraglio in cui vorrà ancora lavorare con la RAI, attenzione, quello è una importante. Ecco, questa è la chiave che ci dà Bernardini, di parole che sembrano altrimenti incomprensibili, pronunciate da Santoro quando dice: ma io non escludo di tornare a collaborare. Può essere che il nuovo editore chieda, per alzare gli ascolti, a Santoro di continuare a fare il tribuno politico, ma di sicuro c'è anche questo, Michele Santoro. Sono molto d'accordo con Massimo Bernardini, perché per quel poco che conosco chi lavora per anni con Santoro, io prendo sul serio questa sua attenzione tecnica maniacale, questa sua voglia di sperimentare modalità nuove. Certo, poi c'è il tribuno, non sta simpatico a tutti. La mia esperienza è che anche quest'anno in Rai, proprio a quella rete, mi hanno offerto una trasmissione e sono rimasto senza parole nel vedere che non erano i dirigenti né di rete dell'azienda a offrirmela, mi invitavano ad approfondirla direttamente con i centri di produzione esterni a cui l'avevano appaltato. Naturalmente non ne ho fatto nulla, non per questo, ma perché dispiace vedere un'azienda in cui la capacità di pensare e questa enorme trasmigrazione di anime che avvenga nell'etere ha bisogno di gente capace di essere padrona delle tecniche per farlo. Ecco, la RAI è da molti anni in una condizione di grande sofferenza, e per questo credo che i servi dei partiti poi alla fine prendono lo spazio. Santoro è un servo di se stesso, non è un servo dei partiti. Questa è la differenza che molti moderati non capiscono. Io ringrazio Bernardini, come Aldo Grasso, come Marco Mel, come Enrico Mentana. Speriamo di aver approfondito in maniera non tribale questa vicenda che per l'ennesima volta ripropone parecchie, troppe forse, anomalie di questa Italia paralizzata dalle curve politiche. E basta con le curve politiche. A domani, Linea Giornale Radio.